Salva Danaio di Deborah Rosciani. Giornata a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Salva Danaio. Una nuova giornata di gloria per la borsa, per fortuna, insomma, settimana scorsa ci siamo spaventati e non poco all'indomani del varo dei piani anticrisi messi in atto, che speriamo non dovranno mai essere messi in atto nel concreto da parte dei governi europei. Le borse europee stanno, vi dicevo, brindando, un brindisi piuttosto corposo, è arrivato ieri anche dalla borsa americana, che ha messo a segno i rialzi più importanti della sua storia, rialzi appunto relativi ovviamente ad una sola seduta. Dow Jones ieri sera più 11%, Nasdaq più 11,8%, stessa storia questa mattina per il mercato asiatico, per il Giappone che ha chiuso con un progresso del 14%, e dopo i rialzi di 10 punti in media registrati ieri anche fra i listini europei, questa mattina le borse europee ci riprovano. Parigi più 5, Francoforte più 4,61, Londra più 4,91, S&P MIBA Piazza Affari più 6%. In questi giorni di borsa prima a picco e poi in stratosferico recupero, come è accaduto ieri e oggi, i risparmiatori, come sapete, ovviamente in certe giornate si sono anche un po' spaventati, lo abbiamo testato e documentato giorno dopo giorno, si sono messi, come sapete, alla caccia di protezione del proprio denaro, del proprio risparmio. Ieri abbiamo analizzato come ci sia un ritorno verso i titoli di Stato, tendenza che peraltro era già in atto da qualche tempo, ma negli ultimi tempi hanno riscosso un certo consenso anche i cosiddetti conti di deposito, dove in molti parcheggiano la liquidità in attesa di schierite del mercato, ma molto più spesso si utilizza lo strumento del conto di deposito come un vero e proprio strumento di investimento, ed è naturale che in un momento di crisi come quello attuale i risparmiatori si chiedano se questi conti godano delle stesse garanzie dei conti correnti tradizionali, e la domanda che ci hanno fatto in molti. Allora noi oggi vi faremo rispondere dai diretti interessati e dai principali player di mercato. Saranno con noi questa mattina Cristian Miccoli, amministratore delegato di Chebanca, Pasquale Casale, amministratore delegato di IVU Bank, e Patrizio Cioffi, direttore area prodotti di risparmio di ING Direct, quindi Conto Arancio. 800 24 00 24 per i vostri interventi, numero verde per permettervi di intervenire in diretta, 349 238 6666 il numero invece per i vostri messaggi. Della borsa vi abbiamo già raccontato, magari possiamo approfittare per dare un'occhiata anche ai titoli che stamattina stanno trainando la volata a Piazza Affari. Abbiamo ancora bloccata dalle contrattazioni SEAT Pagine Gialle, il titolo guadagnava il 19% ed è stata sospesa, circola la voce di una possibile offerta pubblica di acquisto in arrivo per il gruppo. Banco Popolare più 9,63, Fiat più 9,34, Fastweb più 8,94, Tenaris più 8,55, Eni più 8,21, più 8 punti anche per Unipol, Saipem più 7 per Pirelli e per Enel. Tre titoli che guadagnano meno, ci sono i titoli del settore assicurativo, Alleanza più 1,73, Fondiaria più 2%, Generali più 2,41. Insomma, speriamo che questo rimbalzo magari diventi un po' più moderato, ma sia un po' più protratto nel tempo, tanto per continuare a mantenere questa fiducia fra gli operatori che sembra prepotentemente ritornata nell'arco di 2 giorni. Intanto noi per il momento lasciamo la borsa, manteniamo però viva l'attenzione sui nostri investimenti. Oggi parliamo di conti di deposito. Una crisi così non si ricordava da tempo. Le turbolenze sui mercati finanziari non sembrano destinate ad esaurirsi nel breve termine e la fiducia dei risparmiatori è ai minimi. Oggi più che guadagnare, la parola d'ordine è salvarsi dalla burrasca. La tendenza è quella di mettere al riparo, per quanto possibile, i propri risparmi, privilegiando obbligazioni governative o impieghi a brevissimo termine e in liquidità che hanno rendimenti compresi tra 3 e 4,5%. I titoli di Stato non sono però l'unica soluzione per un investimento senza rischio. La discesa della borsa ha fatto orientare negli ultimi anni molti risparmiatori verso i conti di deposito ad alto rendimento. Di solito offerti da banche online sono sempre più spesso soggetti a trasformazioni ed integrati in conti correnti di tipo tradizionale. Si tratta di conti correnti a tutti gli effetti che però, accanto alla tradizionale operatività, offrono interessi più elevati rispetto alla media di mercato e sono uno strumento valido per veder fruttare i propri risparmi senza i rischi dei prodotti finanziari. e le offerte non mancano. Per far fronte alla rigidità che da sempre contraddistingue questo settore e alla crescente sfiducia che si è diffusa tra i risparmiatori in seguito alla crisi internazionale del credito, le banche hanno avviato una concorrenza serrata. Per valutare la convenienza delle proposte, bisogna guardare al tasso di interesse applicato, sia in fase promozionale che in seguito, e alla frequenza con cui vengono capitalizzati gli interessi. Inoltre, è importante informarsi circa la possibilità di rientrare in possesso del capitale senza spese. È bene ricordare, infine, che per quanto riguarda le garanzie, i conti di deposito sono equiparati ai conti correnti tradizionali. Sono quindi coperti, in caso di fallimento della banca, dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi fino a 103.000 euro e ora anche dalla garanzia statale. 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi. Allora, un rapido giro di saluto fra i nostri ospiti e benvenuto a Pasquale Casale, amministratore delegato di WBank. Buongiorno. Ci sono già delle belle domande per lei, ma per la verità ce ne sono anche per Cristian Miccoli, amministratore delegato di Chebanca, la banca retail di Mediobanca. Benvenuto e ben trovato, anzi. Buongiorno. E ben trovato anche Fabrizio Cioffi, direttore area prodotti di risparmio di ING Direct Conto Arancio. Devo dire che se dovessi attribuire questa mattina un primato sulle richieste da parte degli ascoltatori di chiarimento sul funzionamento delle garanzie dei prodotti appunto di deposito, devo dire che molte riguardano proprio voi, ING Direct, Conto Arancio, perché ovviamente essendo una banca olandese la gente si chiede: ma insomma, non abbiamo allora le stesse garanzie mettendo i nostri soldi in un conto di deposito di ING Direct delle altre banche? Così non è, ci vogliamo togliere subito questo dente, Cioffi? Togliamolo subito. Innanzitutto siamo contentissimi di battere questo record di interesse da parte dei clienti. Ed è proprio così, come diceva lei, la garanzia è estesa sicuramente al prodotto Conto Arancio, a ING Direct, la stessa garanzia statale e la stessa garanzia quindi del Fondo di Tutela e estesa dal governo italiano. Non solo, come banca di diritto olandese aderiamo anche al Fondo di Tutela olandese, al quale è stata recentemente estesa ulteriore garanzia da parte del governo olandese. Quindi due fondi di tutela, due governi che garantiscono. Però insomma, speriamo di non aver mai bisogno di attingere le risorse di questi fondi. Tra l'altro, ce lo dicevamo anche prima a microfoni spenti e per la verità con molti altri ospiti abbiamo fatto questa considerazione di questo fondo interbancario di tutela dei depositi. Nessuno aveva mai sentito parlare, non ce ne eravamo mai preoccupati, adesso invece non dobbiamo far altro che parlare di queste tutele. Comunque siamo protetti, Pasquale Casale, poi ovviamente questa domanda la rivolgo anche agli altri. Un atto di onestà intellettuale: che punto sono i vostri call center in questi giorni, i vostri centralini scoppiano, insomma, quali sono i timori dei vostri correntisti? Dunque, i timori sono quelli che sentiamo normalmente in tutte le trasmissioni o leggiamo sui giornali da qualche settimana a questa parte, e riguardano la solvibilità dell'investimento, soprattutto. Per cui abbiamo avuto diversi contatti e più che altro i clienti in questo momento vogliono essere un po' rassicurati. E in questa direzione bene si stanno comportando un po' tutte le autorità e i governi stessi, trasmettendo messaggi di rassicurazione, in quanto non c'è assolutamente nulla di che preoccuparsi, almeno per quello che riguarda il sistema di banche italiane e soprattutto per quei correntisti che poi hanno liquidità sui vari conti correnti. Che banca, Cristian Miccoli? Voi siete partiti in giugno con l'attività retail da parte del gruppo Mediobanca e subito insomma vi siete voluti cimentare nell'affrontare una fase difficilissima per i mercati. Questo ha favorito la vostra attività? Vi ha messo ancora più alla prova? Beh, diciamo, alcuni aspetti sono positivi, perché è evidente che lanciare un conto di deposito e prodotti di risparmio adesso a zero rischio, soprattutto dal gruppo Mediobanca, è una cosa che funziona molto bene, no? D'altra parte è anche vero che nel momento in cui i mercati sono in crisi, i clienti si spaventano e nel momento di spavento c'è un po' una reazione un po' istintiva, che è quella di fare poco o non fare niente, diciamo, che di solito è una reazione pericolosa perché... Perché diciamo non migliora la situazione del cliente sicuramente. Insomma, comunque una situazione che lascia spazio a molte riflessioni, ma vedo che stanno già cominciando ad arrivare le domande dei nostri ascoltatori. Prima però di sentire Raffaele da Roma e Francesco da Milano, mi piacerebbe capire anche in questi giorni se i nostri tre attori che abbiamo invitato, non attori nel senso attori di mercato importanti in questo segmento di mercato, se hanno in qualche maniera anche modificato la propria offerta e per esempio se hanno variato i tassi di remunerazione offerti sui propri conti correnti. ING Direct lo ha fatto il 6 ottobre, due giorni giorni prima che la Banca Centrale Europea riducesse i tassi di interesse nell'Eurozona di concerto con le altre banche centrali. Insomma, se lo avesse saputo prima, lo aveste fatto lo stesso? Lo avremmo fatto lo stesso. Era un rialzo che avevamo programmato. Abbiamo programmato di rialzare i tassi della nostra offerta di Arancio Più, perché riteniamo comunque che nel momento in cui ci trovavamo, noi, a differenza dei colleghi che hanno parlato prima, siamo presenti sul mercato da 8 anni e quindi abbiamo costruito un rapporto di fiducia intenso in questi ultimi anni. Abbiamo voluto dare proprio un segnale ai clienti di possibilità di rinnovo della fiducia. Infatti è un'offerta che è riservata ai clienti, non è un'offerta di acquisizione, non è un'offerta riservata ai nuovi, ma proprio alla base dei clienti che ci ha dato la fiducia in quest'anno come ulteriore rafforzamento. È un 5,20% massimo, se ce lo può spiegare, magari così almeno... È un 5,20% massimo per investimenti dai 100.000 euro in su, garantito per un anno. Dai 5.000 euro è possibile accedere all'offerta di Arancio Più, partendo da tassi che vanno al 4,50 garantito per 6 mesi o al 4,70 garantito per 12 mesi. Quindi insomma avete preso di petto la crisi. Pasquale Casale, ho letto invece su qualche giornale che voi invece li avete un po' ridotti sui conti remunerati. Dunque, sui conti remunerati noi li abbiamo vincolati, quindi magari il conto deposito ai tassi della Banca Centrale Europea, per cui non appena intervenuta la riduzione del tasso di sconto a parte della BCE, una sorta di aggancio automatico? Sì, l'abbiamo abbassati al 3,75%. C'è da dire poi che va anche un po' chiarita la differenza tra lordo e netto quando si parla di queste cifre, perché ad esempio noi abbiamo un deposito vincolato che garantisce il 3,75 netto per 6 mesi, che corrisponde all'incirca poco più del 5% lordo per quello che riguarda appunto la tassazione sui conti correnti ordinari. Quindi noi cerchiamo sicuramente di garantire condizioni di mercato anche alla clientela, quindi senza strafare, e dall'altro lato lavorare o comunque presentare delle offerte anche fiscalmente vantaggiose per i clienti finali, in maniera tale da non avere una ritenuta al 27% come capita sui conti correnti o sui conti deposito normalmente. Che banca, Miccoli, tanto per ovviamente par condicio, ci spieghi anche un po' lei come vi siete mossi in relazione alle turbolenze di mercato, ma soprattutto alle variazioni sui tassi praticati in Europa? Allora, dal nostro punto di vista, la nostra politica è quella di non fare promozioni, perché ritengo ne facciano confusione, e mentre ritengo che in questo momento il cliente voglia capire cosa c'è dietro un'offerta e soprattutto capire se l'offerta è stabile nel tempo. Quindi dal nostro punto di vista non abbiamo cambiato niente, anche perché è vero che ha cambiato il tasso di riferimento la banca centrale, ma di fatto le condizioni dei mercati monetari non sono cambiate rispetto a qualche settimana fa. Infatti, anche se stamattina abbiamo un po' di ridimensionamento sul fronte dell'Euribor, che si è riportato sui livelli del 30 settembre scorso, è stato fissato questa mattina al 5,23%, in calo dal 5,31% livello a cui era ieri. E insomma qua quindi buone notizie, non buonissime, è un'ottima notizia, pian piano sta andando indietro. Abbiamo fatto più volte nei giorni scorsi il paragone con i petrolieri, insomma se l'aumento del petrolio se c'è l'aumento del prezzo del petrolio, il prezzo alla pompa si adegua abbastanza rapidamente, al contrario appunto il movimento al contrario invece non ha la stessa rapidità, esattamente succede nel sistema bancario a quanto pare. Mi volevo togliere un'altra curiosità. Su questo non sarei completamente d'accordo. No? Per tutti gli operatori. No, ma perché... l'interbancario voglio dire che non reagisce, proprio l'interbancario, perché il tasso di riferimento, che come lei sa benissimo viene agganciato, anzi a cui si agganciano i mutui a tasso variabile, per cui è lì che non vediamo l'effetto, ahimè. Un'altra curiosità che mi volevo togliere con voi: siccome abbiamo ricevuto e continuiamo a ricevere ancora molte richieste di chiarimento da parte degli ascoltatori che chiedono, ma insomma se io ho 103.000 euro su un conto e ho altri 103.000 euro o un tot insomma di soldi su un conto corrente, sono tutelato nella stessa maniera ovunque? Quello che voglio arrivare a dire, ma secondo voi ci sono tanti italiani che hanno sul conto corrente centinaia di migliaia di euro? Pasquale Casale. Dunque, sul conto corrente liquidi no, non credo assolutamente. E allora perché c'è tutta questa ossessione nel sapere qual è la rosa delle nostre garanzie? Perché lì probabilmente c'è stato un difetto di comunicazione da parte non dei media, ma comunque in generale da tutto il mondo dell'informazione, che dunque racconto un aneddoto. Tante persone, soprattutto le persone meno utilizzano questa tipologia di strumenti, diciamo non erano assolutamente interessate prima a queste garanzie. Da quando hanno sentito che ci sono le coperture o comunque queste garanzie, tutti si preoccupano, perché come dire, il messaggio è stato posto, come dicevo poc'anzi, abbastanza male in termini di comunicazione, in quanto se non si fosse fatto accenno a queste garanzie, tutti sarebbero molto più tranquilli e nessuno sarebbe qui a preoccuparsi. Per cui anche la soglia dei 103.000 euro passa molto in secondo piano e comunque tutti si preoccupano di essere garantiti. Poi non si sa bene da cosa. Cristian Miccoli, che banca, lei che ne pensa? Io credo che la cosa positiva, se vogliamo vedere qualcosa di positivo in questa situazione non brillante, è che sicuramente i clienti stanno cominciando a capire le differenze tra banca e banca, no? Quindi credo che le differenze di sicurezza, solidità e serietà di gestione tra una banca, un gruppo e l'altro verranno fuori, no? Perché alla fine la vera garanzia per il cliente è la serietà e la solidità del gruppo a cui sto dando i soldi. Questo alla fine è un dato di base, ma rimane sempre vero. Fabrizio Cioffici, anche lei vuole accomunarsi insomma a queste riflessioni? Sì, sono d'accordo con Casale. Sicuramente la comunicazione ha fatto il suo lavoro, mettendo molto in evidenza l'aspetto della garanzia, che non era e non dovrebbe essere una preoccupazione per i risparmiatori. Da questo punto di vista, nel contempo, bene ha fatto il governo chiarendo la garanzia di tutti i risparmiatori italiani. Diciamo che è stato azzerato questo dubbio da parte dei clienti nel momento in cui questa garanzia c'è, è uguale per tutti, non è più argomento di discussione, veramente andiamo ai fondamentali. 800 24 00 24, apriamo allora i nostri microfoni ai nostri amici che ci seguono da casa. Raffaele da Roma, benvenuto. Buongiorno e saluto tutti gli ospiti. Io ho una domanda semplice. ING Direct è un conto deposito o un prodotto finanziario? Beh, ING Direct è una banca olandese e poi diciamo dipende dal prodotto a cui si riferisce, Raffaele. Hanno in casa prodotti di investimento ma anche il conto di deposito. Ma anche prodotti di risparmio. Comunque mi è piaciuto molto l'approccio di Raffaele. Una domanda semplice, una risposta semplice, è sempre stato il nostro slogan. Quindi sì, sono il nostro prodotto traino, il prodotto per cui siamo più famosi è sicuramente Conto Arancio. È un prodotto di risparmio. È un prodotto che si rivolge ai risparmiatori italiani e che soddisfa l'esigenza basilare di risparmiare. Diciamo che non si sostituisce al conto corrente tradizionale, ha anche un'operatività per certi aspetti simile a quella del conto corrente, ma non si può sostituire integralmente a questo. Non si può sostituire integralmente a questo, offre la possibilità di massimizzare i rendimenti di liquidità. Credo che questa sia anche un po' la filosofia di base dei conti di deposito di che banca, Cristian Miccoli? Sicuramente, io ritengo che la differenza base per un cliente sia tra risparmiare e cominciare a investire, no? Se io risparmio vuol dire che sostanzialmente sto dando in custodia dei soldi a una banca e basta. Quindi questa banca mi restituirà esattamente quello che ho depositato. Quindi l'unica cosa che io devo capire è a chi sto dando i soldi e se questo ente a cui sto dando i soldi può godere della mia fiducia, che alla fine per la banca è patrimonio più grande, no? E questo è il punto chiave. È importante comunque che i clienti comincino a fare questo ragionamento, a fare questa distinzione. Francesco da Milano, una domanda per Pasquale Casale invece, benvenuto. Grazie, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie Francesco. Io volevo chiedere, i conti di deposito, i V-Power, i V-Power Turbo, i V-Power Rendita, sono coperti come conti correnti normali dal punto di vista della garanzia? Francesco, grazie. Ho già avvisato Casale che sarebbero arrivate domande di questo tipo. Allora, questi sono in realtà prodotti a metà tra il conto di deposito e il prodotto di investimento. Sì. Dunque, c'è da definirli un po'. Vale a dire, l'IV-Power si suddivide in un comparto a vista ed è un conto deposito, un banale conto deposito. È un comparto al quale mi riferivo prima, quello a scadenza o comunque vincolato, dove la banca investe per il sottoscrittore in titoli di Stato, quindi in buoni ordinari del tesoro. Per l'IV Power questo a scadenza, quindi 30, 90, 180. Infine c'è l'ultimo prodotto, che è l'IV Power Rendita, che è un'obbligazione emessa dai V-Bank, quindi è una terza tipologia di prodotto, in quanto, come dicevo poc'anzi, il primo è un conto corrente, quello a vista, il secondo è investimento in titoli di Stato, il terzo invece è un investimento in un'obbligazione emessa dai V-Bank, quindi le garanzie sono completamente diverse tra i tre prodotti. Infine c'è l'opzione Turbo, dove il cliente dà la facoltà alla banca di prestare il titolo che ha sottoscritto, e quindi ancora una volta un quarto tipo di prodotto che peraltro ha altre diverse garanzie. Se abbiamo tempo posso appunto... Magari le facciamo nella seconda parte di Salvadanaio, perché adesso dobbiamo andare in pausa a ascoltare le anticipazioni di GR Extra Large. Gino da Roma, faccio fare la domanda anche a lei, così faccio preparare anche la risposta ai nostri interlocutori di questa mattina, le lascio riflettere un attimo, fare un po' mente locale. Gino. Benissimo, grazie innanzitutto, buongiorno. La differenza in pratica, mi pare di capire, con i conti correnti ordinari è sugli interessi e sul vincolo inteso come durata. E perché le banche non l'hanno pubblicizzato questo prodotto fino ad ora? Gino, magari perché lei non legge forse i giornali giusti, perché le posso dire che invece le campagne pubblicitarie intorno a questi prodotti sono molto intense, molto aggressive in certe fasi, e quindi magari insomma sarà stato sfortunato, non avrà dato un'occhiata alle pubblicazioni giuste. Eccoci di nuovo in diretta. Questa mattina stiamo tentando di rispondere a tutti gli ascoltatori che ci hanno scritto in questi giorni chiedendoci se i conti di deposito, che sono molto diffusi nel nostro mercato grazie alle offerte che sono proliferate negli ultimi anni, godono delle stesse tutele, delle stesse garanzie dei conti correnti tradizionali. Allora noi, anche per rispondere a chi ci chiede, ma insomma mi sembra una trasmissione con la quale state facendo pubblicità occulta, noi abbiamo chiamato i principali player di mercato e stiamo facendo questa trasmissione anche per assicurare la gente sul fatto che nessuno porterà via il proprio denaro dal proprio conto di deposito se ce l'ha. Poi ovviamente c'è anche chi ha fatto delle scelte diverse, ma in ogni caso noi cerchiamo di accontentare un po' tutti, non ci riusciamo mai inevitabilmente. In ogni caso, questa mattina rispondere alle vostre domande sono, siccome si stanno mettendo in gioco anche gli amministratori delegati delle società interessate, quindi insomma cercate anche di apprezzare questo aspetto. Cristian Miccoli, amministratore delegato di Ikebanca, Pasquale Casale, amministratore delegato di IV Bank, Fabrizio Cioffi, direttore area prodotti di risparmio di ING Direct, conto arancio, tanto per chiarirci le idee. Eravamo rimasti in sospeso con delle risposte ad alcuni ascoltatori. Allora, Gino da Roma aveva chiesto chiarimenti su come vengono remunerati questi conti, sui vincoli di determinati conti di deposito, e soprattutto diceva Gino, ma insomma perché io di questa offerta non avevo mai sentito parlare, forse perché molti italiani anche sono rimasti ancorati alle forme di ovviamente deposito tradizionale, mantengono i soldi sul proprio conto corrente, si fa molta difficoltà a guardarsi intorno, ma anche perché l'opzione online ce l'hanno praticamente quasi tutte le banche. Qua quello di cui stiamo parlando questa mattina, Miccoli, è una cosa diversa. Sì, allora il motivo per cui l'ascoltatore dice ma le banche non fanno questa offerta è che in realtà per il cliente la banca è lo sportello, no? E io ritengo che oggi una banca moderna non possa fare a meno dello sportello, perché il cliente lo vuole, se lo aspetta, diciamo. E quindi io ritengo che in questo caso il cliente abbia colto un aspetto, anche solo dal punto di vista emotivo, comunque molto rilevante della vicenda, no? E che è proprio quello, tra l'altro, a cui stiamo venendo incontro noi. Io credo che oggi per fare banca in Italia una rete di sportelli sia assolutamente necessaria, proprio per creare fiducia e dare al cliente la garanzia che qualsiasi problema ci sia, c'è sempre qualcuno che risponde ed è in grado di dare indicazioni, diciamo. 800240024, Pasquale Casale, concludiamo anche all'ascoltatore che chiedeva spiegazioni sul funzionamento delle vostre tipologie di prodotto. Avete il conto di deposito, sì, puro, a vista, e poi esatto, dove non ci sono vincoli, anche per rispondere all'ascoltatore di Roma, ci sono gli interessi al 3,75%. Ed è possibile prelevare e versare in qualsiasi momento senza perdere assolutamente nulla. Le opzioni turbo invece praticamente sono dei depositi vincolati, dove il cliente dà facoltà alla banca di prestare il titolo. Quindi nel primo caso, quindi nel deposito a vista, c'è la garanzia, quella del fondo dei depositi, della quale si diceva prima, dell'interbancario dei depositi. Sulla parte vincolata, dunque nel primo caso, quindi senza il turbo per intenderci, c'è di fatto la garanzia dello Stato, perché si investe in titoli di Stato. Nel terzo caso, quindi quando c'è anche il prestito dei titoli, a quel punto c'è il rischio controparte. Quindi può essere il rischio IV Bank nel nostro caso, o di qualsiasi altra banca nel caso in cui queste operazioni si facessero con altre banche. Mm-hmm. Nel caso infine di IV Power Rendita, c'è ancora una volta il rischio IV Bank, in quanto l'obbligazione è emessa dalla banca, da IV Bank stessa. Sto notando che ancora molti ascoltatori intervengono sull'aspetto dei 103.000 euro, che è il tetto massimo della garanzia fornita dal fondo interbancario di tutela dei depositi, ma insomma, ma chi li vada a chiedere i famosi 103.000 euro il giorno dopo che la banca è fallita? Speriamo intanto di dover mai dipingere uno scenario di questo tipo. La banca va in liquidazione, se non ricordo male tra l'altro avviene una restituzione di 20.000 euro del deposito nei 3 mesi successivi alla liquidazione, dopodiché a seconda di come la liquidazione procede, Casale vedo che annuisce, mi può aiutare su questi aspetti, però insomma anche qua dipingiamo uno scenario che... Certo, assolutamente improbabile. E io mi concentrerei, per quanto riguarda le preoccupazioni degli investitori a questo punto, più sui prodotti che si vanno a sottoscrivere, in quanto si è molto focalizzata qui la discussione in questi giorni sulle garanzie dello Stato, però pensiamo ai sottoscrittori che hanno sottoscritto ad esempio bond Lehman o polizze con il rischio Lehman all'interno, per cui le hanno sottoscritte presso le banche tradizionali o le banche online o comunque presso banche italiane, e a questo punto però hanno un rischio che non è quello della banca italiana o dello Stato italiano, ma hanno il rischio di una società che è in chapter 11, non ancora fallita, che comunque non è assimilabile a tutto ciò che lo stiamo dicendo in questi giorni. Quindi io penso che quello che rimarrà, almeno così sono le prime riflessioni a cavallo di questa crisi, deve essere per i sottoscrittori la percezione dei prodotti che si vanno a sottoscrivere, il rischio che di fatto si corre sottoscrivendo questi prodotti e soprattutto il costo di questo rischio, mm-hmm. che chiaramente per i sottoscrittori deve essere un beneficio in termini di interessi piuttosto che di performance. Ecco, tutto questo non c'è stato alcun approfondimento in questa direzione durante questi giorni, e io spero tanto che nei prossimi mesi, nelle prossime settimane saranno approfondite queste tipologie di criticità che ci sono nel sistema, perché è vero della banca solida, ci preoccupiamo molto delle banche solide, però se sottoscrivo, ripeto, una polizza, uno strutturato presso la banca solida e il sottostante dello strutturato della polizza salta, la banca aspetto solida, che probabilmente la banca anche solida forse non aveva neanche minimamente preso in considerazione, perché sfido chiunque. Certo, però non ho il rischio della banca solida in corpo, mm-hmm. come sottoscrittore, ho il rischio dell'emittente della polizza, mm-hmm. piuttosto che del sottostante stesso che c'è nella polizza. Quindi una maggiore attenzione per i risparmiatori sulla scelta dei prodotti, che deve essere molto più consapevole, soprattutto una scelta semplice, verso prodotti semplici, per chi non ha conoscenze molto avanzate. 800 24 00 24 per le vostre domande. Anna dalla provincia di Macerata. Buongiorno, io vorrei sapere semplicemente questo: se per quanto riguarda il conto arancio c'è un limite minimo. Io ricordo che una volta era sui 30.000 euro, e per appunto iniziare con l'interesse, mi riferisco al conto arancio che potrebbe essere attivato entro il 31 ottobre, sì. con un interesse del 4,75%. Sì, che è l'ultima offerta promozione. Appunto, volevo sapere se innalzando, se bisogna appunto, se non bisogna superare la soglia dei 30.000. Credo di no, da quello che mi è arrivato a casa. Anna, no, c'è Fabrizio Cioffi che ci sta rispondendo di no. Cioè, esiste, ma non ho, io in realtà non ho ben capito la domanda di Anna. Vuole sapere se c'è un investimento minimo da fare per poter aprire il conto e per poter usufruire di questa promozione, per esempio? Credo che il conto deposito. Sì. Credo che sia questa la domanda. Non c'è nessun limite minimo di investimento, c'è solamente un limite massimo di 1.500.000 euro. Per conto? Forse, di deposito? Per conto. Ah, però. Quindi la signora forse si riferisce a qualche vecchia offerta dove comunque non era un limite, ma era un importo sul quale veniva riconosciuto un tasso di interesse. L'offerta adesso è assolutamente piana e semplice, 4,75% da un euro in su. Mm-hmm. Cristian Micoli, per quello che riguarda che banca, per esempio, per poter attivare un conto di deposito presso di voi, anche in questo caso esistono dei limiti minimi? Un euro anche per quello che vi riguarda. Sì. Rifacciamo un po' il punto anche per quello che riguarda voi sulle remunerazioni che vengono offerte in questo momento. Sì, guardi, noi diamo il 4% sul deposito libero e poi a salire fino al 4,7% anticipato sul deposito un anno, perché la caratteristica nostra, proprio per sottolineare così il fatto che siamo una banca diversa e soprattutto molto solida, molto liquida, è che abbiamo deciso di pagare gli interessi subito, ovvero il cliente versa quello che intende depositare per un anno e immediatamente può spendere gli interessi, spendere o reinvestire se preferisci. Anche se non c'è solamente il vincolo ad un anno, sono anche un altro paio, mi sembra, più ridotti. Sì, abbiamo anche il vincolo a 3 mesi, a 6 mesi, che sono al tasso del 4,3-4,5%, e poi 4,7 invece a 12 mesi. Insomma, un mercato che si è molto movimentato negli ultimi tempi nel nostro paese, forse si potrebbe fare anche qualcosa di più, ma a Casale, per le banche tradizionali, visto che voi siete là a aumentare un po' la concorrenza non solo in questo ambito, ma siamo davvero sicuri, come diceva Micoli, che noi abbiamo comunque in assoluto bisogno anche dello sportello? Dal mio punto di vista ovviamente no, nel senso che il nostro modello è completamente online e dal successo che ha riscosso questo modello negli ultimi anni sono tentato di dire che non c'è bisogno dello sportello. È chiaro, sono due posizioni molto estreme. Per quello che concerne le banche tradizionali, io penso che nei prossimi mesi dovranno molto concentrarsi, al di là poi di tutti i problemi di liquidità, solvibilità e così via, sul conto economico, in quanto questa crisi sicuramente gli abbatterà i ricavi, sta abbattendo i ricavi di tante strutture, in particolare appunto delle banche, e quindi avere concorrenza su questa tipologia di offerte di prodotti dove la banca comunque retrocede al cliente un tasso maggiore rispetto alla situazione attuale, onestamente non mi aspetto grosse offerte o comunque grossa concorrenza da parte delle banche tradizionali, almeno per i prossimi 12-18 mesi. Anche perché, lo abbiamo detto più volte, questa crisi sta probabilmente anche mettendo a nudo tante problematiche, l'esasperazione finanziaria in qualche maniera forse condurrà le banche a riportarsi sul business tradizionale, quindi ad erogare credito, ad occuparsi dei clienti in maniera diversa di come non sia accaduto fino ad ora. Microfoni aperti questa mattina da parte dei rappresentanti delle banche che operano nell'ambito dei conti di deposito: Cristian Miccoli, amministratore delegato di Chebanca, Pasquale Casale, amministratore delegato di IVU Bank, Patrizio Cioffi, direttore area prodotti di risparmio di ING Direct. 800 24 00 24, per tornare anche su alcuni aspetti della crisi finanziaria in corso, e quindi cerchiamo di tranquillizzare i nostri ascoltatori sul fatto che anche questi conti, dove probabilmente abbiamo depositato un bel po' di soldini recentemente, magari chi è riuscito a scappare dalla borsa in tempo, in attesa di tempi migliori, si è attivato proprio sul fondo del conto, sul fronte del conto di deposito, ma in ogni caso, insomma, la crisi recente ha generato un po' di paura anche sul funzionamento di questi prodotti. Enrico da Parma, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie per farmi intervenire. Io appunto volevo dire proprio questa cosa che lei ha appena accennato, in quanto io sono cliente della banca online da 9 anni ed è l'unica mia banca con cui ho rapporti. Questo però facilita molto il fatto di avere un conto deposito che permette comunque in momenti di molta incertezza di non vincolare il proprio denaro, magari svincolato in questo momento dalla borsa perché uno è uscito magari 15 giorni fa o 20 giorni fa, insomma comunque è uscito, e anziché parcheggiarli su un conto corrente tradizionale lo deposita su un conto corrente che comunque genera a quasi a parità di un pronto contromercato. Soprattutto con questi signori che oggi offrono anche il 5-25%. Quindi insomma lei l'ha un po', come dire, individuato proprio come come protezione temporanea, esattamente come dovrebbe essere, esatto, anche lo. Però io dico che sicuramente sono moltissimi, non pochi, quelli che in questo momento secondo me hanno fatto in questa previsione hanno fatto questi depositi, quindi sono molti di più quelli che hanno i famosi 100.000 euro su un conto corrente remunerato così, di quanto si possa pensare invece. Vabbè, insomma, lì abbiamo problemi di privacy, non possiamo andare ad indagare anche tra i nostri ospiti di questa mattina. La ringrazio per la sua riflessione, sentirei anche Aldo da Cuneo. Buongiorno, volevo solo chiedere per i responsabili del conto arancio. Io sì. Ho chiuso il mio conto un paio di anni fa, ho tolto tutti i soldi che avevo, però quando vado a riaprirlo vedo sempre che il mio conto rimane aperto, non è stato chiuso, pensando, cioè avendo tolto tutti i soldi pensavo che fosse stato chiuso. Sì. Invece non apro un nuovo conto, ma riapro sempre il vecchio conto che avevo 5-6 anni fa, 4-5 anni fa. Ma lei sta parlando di arancio? Cioè dice che la sua pratica non è stata evasa al 100%? No, io ho estinto tutti i soldi che avevo sul conto. Però il conto rimane aperto. Sì, non capire come mai non. Sì, non sì, è... sentiamo allora Fabrizio Cioffi. Questo è un aspetto, tra l'altro, del tutto. Signor Aldo, probabilmente la spiegazione può essere semplice: prelevare i soldi non equivale a chiudere il conto di deposito. Per chiuderlo occorre richiedere una chiusura. Diciamo che il conto rimane comunque aperto e quindi lei rimane con la possibilità di fare versamenti fin tanto che non decida invece diversamente e quindi ci esprima il desiderio di procedere alla chiusura del rapporto. Quindi deve esprimerlo chiaramente. Deve chiamarci, chiamarci e dircelo, o scriverci una lettera per chiuderlo. Ma visto che ce l'ha aperto, può essere l'occasione di rialimentarlo. Sì, IV Bank, Pasquale Casano, ascoltatore, chiede perché 6 mesi dell'investimento IV Power 180 dura 212 giorni. Mi deve aiutare ad interpretare anche la domanda. Sì, qui facciamo riferimento ai depositi a scadenza, quindi quelli vincolati. Dunque il nome commerciale del prodotto è IV Power 180, per cui la scadenza indicativa è 180 giorni. Ma poi per quanto dicevo prima, che investiamo per conto del cliente per conto del cliente in buoni ordinari del tesoro, bisogna vedere poi in quel periodo che scadenza è disponibile, quindi probabilmente in questi giorni la prima scadenza disponibile intorno ai sei mesi è quella proprio indicata dall'ascoltatore. Quindi diciamo è una durata fisiologica. Una durata fisiologica e cambia chiaramente di giorno in giorno e poi di scadenza in scadenza. Marco da Piacenza. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. La mia più che una domanda voleva essere una considerazione. Io sono un operatore del settore. Mi sto accorgendo che facendo fare il check-up ai clienti, mi auguro che questa crisi serva perlomeno ai clienti stessi in primis per capire che non è sempre oro quel che luccica e che quindi se si ritrovano ad avere extra rendimenti a parità di tipologia di strumento, evidentemente questo sottintende un rischio maggiore. Molto spesso se il cliente a parità di titolo, che sia un'obbligazione o simili, ha guardato solo ed unicamente il rendimento e la differenza e lo spread fra l'uno e l'altro. Evidentemente Cirio, Parmalat e Argentina non avevano ancora insegnato abbastanza, mi auguro che questa volta questa crisi sia sufficientemente robusta per almeno insegnare a tutti quanti. Sì, Marco, la ringrazio. Le differenze ci sono, insomma. Sì, certo, è una considerazione che esula un po' anche dal tema che abbiamo voluto affrontare questa mattina, ma sono sicura che i nostri interlocutori di oggi così si troveranno d'accordo con lei. Cristian Miccoli, questa è una crisi che secondo lei, insomma, impartirà una lezione sonora e pesante a molte più persone di quanto non abbiano dovuto subire con i crack finanziari che citava il nostro ascoltatore. Insomma, anche le banche sicuramente dovranno ripensare per un modello di business. Sicuramente va ripensato, sicuramente il futuro è molto più vicino a una banca, la banca moderna come la vedo, diciamo, una banca che ritorna a fare cose anche semplici, quindi rivalorizzare di nuovo i conti, la remunerazione dei depositi e così via. Alessandro da Ravenna. Sì, salve. Avevo un quesito per l'amministratore delegato di WBank. Prima faceva riferimento alla differenza tra i WPower e i WPower Turbo, dicendo che i WPower era sostanzialmente l'acquisto di bot tramite i WBank, quindi bot dello Stato, per cui si era sottoposti al rischio default dello Stato, mentre i WPower Turbo si autorizzava appunto i WBank al prestito e si era sottoposti quindi al rischio default di WBank stessa. Bene, io gli chiedevo, considerando quello che è scritto sul sito, dove c'è scritto sostanzialmente che la differenza, definendo i WPower Turbo, dice sostanzialmente che l'unica differenza è che si autorizza i WBank a prestare i propri bot ad altri. Certo. Da qui a dire il rischio in i WPower Turbo è quello di default di WBank, non riesco a capire il nesso, perché lì dice, no, sul sito si dice non è in contraddizione. WBank a prestare i propri bot, quindi io ho sempre bot. Sì, Alessandro, la ringrazio. Casale sarà contento di risponderle. Sì, dunque non è in contraddizione la cosa tra quello che c'è scritto sul sito e poi le preoccupazioni, come si diceva prima, su questi rischi di default. Nel caso dell'operazione appunto a scadenza, il rischio è un rischio relativo ai titoli di Stato, e qui lo confermo. Per quello che riguarda l'opzione turbo, danno mandato alla banca, quindi in questo caso i WBank, di prestare il titolo, è come una normale operazione di pronti termini dove il rischio di controparte è il rischio della banca stessa, in quanto la controparte del prestito titoli è i WBank. Però non trovo nulla di contraddittorio con quanto c'è scritto sul sito poi. E insomma, comunque è giusto che le persone poi si interroghino, se non hanno ben chiaro il funzionamento anche dei meccanismi dei propri prodotti di investimento, è giusto che facciano delle domande. Allora, io vi ringrazio per essere intervenuti, speriamo di aver rassicurato i nostri ascoltatori, insomma speriamo soprattutto che di non dover tornare a parlare di questi argomenti perché le banche sono fallite o perché insomma abbiamo visto sfumare i nostri risparmi. Io vi ringrazio ancora, grazie a Fabrizio Cioffi, NG Direct Conto Arancio, Pasquale Casale, amministratore delegato di WBank, Cristian Miccoli, amministratore delegato di Chebanca. Naturalmente Salva Danaio torna domani, torneremo ad esplorare altri aspetti di questa crisi, magari torneremo nell'ambito delle obbligazioni con le novità del governo che sono state varate ieri, presto parleremo anche dei fondi pensioni. Per il resto, Deborah Rosciani, buona giornata a tutti.